terzo anello, ad alta voce, la montagna incantata di Thomas Mann. Castorp era dunque a letto dal pomeriggio del sabato, perché il consigliere aulico Berens, la suprema autorità del mondo in cui viviamo, l'aveva ordinato. Se ne stava là, il suo monogramma sul taschino della camicia da notte. Guardava il soffitto, considerando la stranezza delle sue condizioni. E non è da supporre che senza raffreddore i suoi occhi sarebbero stati limpidi, chiari e non ambigui, perché il suo animo, per quanto fosse semplice, non era affatto così, anzi, effettivamente assai fosco, confuso, non proprio sincero, dubbioso. Ora lo scoteva un folle riso di trionfo che saliva dal profondo del petto, e il cuore si arrestava dolorante di una gioia e di una speranza mai conosciute ed eccessive. Ora impallidiva dall'ansietà e dallo sgomento, e il cuore, con ritmo accelerato, veloce, in accordo con le percosse della coscienza, batteva contro le costole. Un giorno, ne potevano essere passati 10 o 12 da quando Castorp si era messo a letto, udì bussare a quell'ora, vale a dire prima che Joachim fosse ritornato dalla cena e dalla sosta in società, e al suo stupefatto avanti vide comparire sulla soglia Ludovico Settembrini, mentre la camera si illuminava di una luce abbagliante. Il primo gesto del visitatore, mentre la porta era ancora aperta, era stato quello di accendere la lampada del soffitto, che, riflessa dal bianco del soffitto stesso e dei mobili, in un attimo empì di un tremolante chiarore tutta la stanza. L'italiano era, fra tutti gli ospiti, l'unica persona della quale in quei giorni Castorp si fosse espressamente e personalmente informato presso suo cugino. Ogni qualvolta si sedeva 10 minuti sulla sponda del suo letto o stava in piedi vicino a lui, e ciò avveniva 10 volte al giorno, Joachim riportava di suo i piccoli avvenimenti e le varianti della vita quotidiana del sanatorio, e le domande di Castorp erano state generiche, senza riferimento a determinate persone. Trovandosi isolato, era soltanto curioso di sapere se erano arrivati nuovi ospiti e se qualcuna delle fisionomie familiari era partita, e pareva contento di apprendere che c'erano stati soltanto arrivi. In quanto a Settembrini, Castorp aveva chiesto di lui e desiderato di apprendere che cosa ne avesse detto. Di che cosa? Oh, via, del fatto che sono a letto e dovrei essere malato. Infatti Settembrini aveva detto la sua, sia pur in breve. Fin dal giorno della scomparsa di Castorp si era rivolto a Joachim per avere notizie dell'ospite e aspettava evidentemente di sentirsi rispondere che era partito. Alle spiegazioni di Joachim aveva replicato con 2 sole parole in italiano. Prima aveva detto «Ecco», come per dire «Dunque ci siamo». E poi «Poveretto». Non occorreva che i 2 giovani sapessero bene l'italiano per comprendere il significato di quelle parole. «Perché poveretto?» aveva obiettato Castorp. «Anche lui è relegato quassù con la sua letteratura mista di umanesimo e politica e può curare ben poco i suoi interessi terreni. Non dovrebbe compassionarmi così dall'alto. Io scenderò certo al piano prima di lui». Settembrini dunque era nella camera, improvvisamente illuminata. Castorp si era sollevato sui gomiti e, volto verso la porta, lo riconobbe, stringendo le palpebre, e, riconosciutolo, arrossì. Come al solito, Settembrini portava la giacca pesante, coi larghi risvolti e il colletto rovesciato un po' liso, nonché i calzoni a quadretti. Poiché veniva dalla cena, teneva fra le labbra, come di consueto, uno stuzzicadenti di legno. Gli angoli della bocca, sotto la bella curva dei baffi, erano tesi nel ben noto sottile, freddo e critico sorriso. «Buonasera, ingegnere! È permesso chiedere notizie della sua salute? In caso che sì, ci vuole la luce! Perdoni se mi prendo questa libertà!» disse, alzando di slancio la piccola mano verso la lampada del soffitto. «Lei stava in contemplazione. Non vorrei assolutamente disturbare. La tendenza a riflettere la posso capire nel caso suo, e per chiacchierare ha in fondo suo cugino. Come vede, so benissimo di essere superfluo. Eppure, si vive insieme in uno spazio così ristretto. Sorgono simpatie tra persona e persona, interessamento spirituale, affetto. È una buona settimana che non la si vede. Quando vidi il suo posto vuoto laggiù nel refettorio, cominciai davvero a presumere che lei fosse partito. Il tenente mi convinse del contrario. Meno buono, se non sono scortese. Insomma, come sta? Che cosa fa? Come si sente? Non troppo depresso, spero. E dica un po', ingegnere, i suoi, come hanno accolto la notizia? Quale notizia? Il rinvio della mia partenza? Oh, i miei di casa sono tre zii, un prozio e due suoi figli, coi quali ci consideriamo piuttosto cugini. Non ho altri fra i miei, sono rimasto assai presto orfano di padre e di madre. Come l'hanno accolta? Non ne sanno ancora molto, non più di quanto ne sappia io. Da principio, quando mi sono messo a letto, ho scritto che ero molto raffreddato e non potevo affrontare il viaggio. E ieri, visto che si va un po' per le lunghe, ho riscritto, dicendo che il catarro ha richiamato l'attenzione del consigliere Behrens sul mio petto. Ed egli insiste perché io prolunghi il mio soggiorno finché ci si vedrà chiaro. Essi ne avranno preso nota con animo tranquillo. E il suo posto? Lei aveva accennato a un'attività pratica alla quale stava per dedicarsi. Sì, come volontario. Ho pregato quelli del cantiere di scusarmi per ora. Non creda che per questo saranno disperati. Possono cavarsela finché vogliono, anche senza un volontario. Benone, sotto questo aspetto, dunque, tutto è in regola. Flemma su tutta la linea. In genere, al suo paese, la gente è flemmatica, vero? Ma anche energica. Certo. Anche energica, anzi molto energica, rispose Castorp. Esaminando a distanza l'atmosfera vitale in patria, gli parve che il suo interlocutore ne desse una definizione esatta, flemmatici ed energici. Così sono davvero. Ebbene, continuò Settembrini, se lei dovesse restare qui un po' a lungo, non mancherà quassù l'occasione di conoscere suo zio, il prozio, intendo. Escluso, esclamò Castorp, in nessun caso, neanche se lo tirassero con gli argani. Mio zio, deve sapere, è molto apoplettico, è quasi senza collo. Ha bisogno di una ragionevole pressione atmosferica. E qui starebbe ancora peggio di quella signora venuta dalle province orientali. Gli verrebbero tutti gli accidenti. È una delusione per me. Apoplettico? Che valgono allora la flemma e l'energia? Suo zio sarà ricco, penso. È ricco anche lei? Tutti sono ricchi al suo paese. Castorp sorrise di quella generalizzazione letteraria. Poi guardò di nuovo lontano, nell'ambiente del suo paese, dal quale era distaccato. Ricordò e cercò di giudicare oggettivamente. La distanza lo invitava a farlo e gliene dava la capacità. Rispose: «Ci sono i ricchi, sì, ma anche gli altri. E se uno non lo è, tanto peggio. Io non sono milionario, ma ho l'esistenza assicurata. Sono indipendente. Ho di che vivere. Mi lasci da parte. Se lei avesse detto che laggiù si deve essere ricchi, le avrei dato ragione. Ammesso che uno non sia ricco o abbia cessato di esserlo, guai a lui. Quello, domandano, ha ancora quattrini. Così, testuale, e proprio con questa faccia. L'ho sentito io più volte e vedo che mi è rimasto impresso. Dunque deve essermi parso strano, benché fossi avvezzo a sentirlo, altrimenti non mi sarebbe rimasto in mente. Che ne dice lei? Ecco, non credo che lei, per esempio, lei, homo humanus, si troverebbe bene da noi. Persino a me, che pure vivo in quell'ambiente, è sembrato certe volte inaudito, come mi accorgo ora, benché personalmente non ne abbia avuto a soffrire. Chi nei pranzi non fa portare a tavola i vini più buoni e più cari, rimane senza ospiti, e le sue figliole senza marito. Così sono fatti. Stando qui a letto e vedendo le cose da lontano, mi sembra inaudito. Come ha detto lei, flemmatici ed energici. Già, ma che significa? Significa duri e freddi. E che significa duro e freddo? Significa crudele. Spira un'aria crudele laggiù. Inesorabile. Stando qui a letto e guardando da lontano, c'è da provarne orrore. Thank you. Lei è uno scrittore, vero? Riprese Castorp. Un letterato. Di queste cose se ne deve pur intendere, per intuire che in queste circostanze non si può essere d'animo così rozzo da considerare ovvia la crudeltà della gente. Della gente comune, capisce? Di quelli che se la ridono e fanno quattrini e si empiono la pancia. Non so se mi spiego. Settembrini si inchinò. Lei vuol dire, commentò, che il precoce e ripetuto contatto con la morte crea un fondamentale stato d'animo irritabile e sensibile alla brutalità e crudezza della sventata vita sociale, diciamo pure al suo cinismo. Proprio così, esclamò Castorp con sincero entusiasmo, parole esatte, precise, fino ai puntini su lì, con la morte. Lo sapevo che lei, da letterato... Settembrini tese un braccio verso di lui, reclinando la testa su una spalla e chiudendo gli occhi, atteggiamento molto bello e cordiale, per chiedere silenzio e ulteriore attenzione. Rimase così qualche secondo, anche dopo che Castorp aveva smesso di parlare, e con un certo imbarazzo stava in attesa del seguito. Infine riaprì gli occhi neri, gli occhi dei suonatori d'organetto, e disse: «Permetta, mi permetta, ingegnere, di dirle e di farle notare che l'unico modo sano e nobile, nonché, lo voglio aggiungere espressamente, l'unico modo religioso di considerare la morte consiste nel comprenderla e sentirla come parte e accessorio, come sacra condizione della vita. Non già, che sarebbe il contrario di sano e nobile, ragionevole e religioso, nel volerla scindere in qualche modo dalla vita, nel contrapporla o magari metterla in ripugnante antagonismo ad essa. Gli antichi ornavano i loro sarcofagi con simboli della vita e della procreazione, persino simboli osceni. Per la religiosità antica, sacro e osceno, erano spesso tutt'uno, quelli sì che sapevano rispettare la morte. La morte è veneranda come culla della vita, grembo materno del rinnovamento. Se la si considera scissa dalla vita, diventa spettro, grinta o qualcosa di peggio. La morte, infatti, come potenza spirituale autonoma, è una potenza quanto mai sconcia, la cui depravata forza di attrazione è indubbiamente fortissima. Ma avere questa forza in simpatia è altrettanto indubbiamente indizio della più orrenda aberrazione dello spirito umano. A questo punto Settembrini tacque. Si arrestò a questa sentenza, facendo capire di essere giunto decisamente alla fine. Faceva sul serio. Non aveva parlato così per conversare. Aveva evitato di offrire all'interlocutore occasioni di soggiungere e ribattere. E alla fine della sua esposizione aveva abbassato la voce e messo un punto. Stava là, la bocca chiusa, le mani incrociate in grembo, le gambe nei calzoni a quadretti accavallate, e si limitava ad alzare e abbassare leggermente il piede, sospeso in aria, osservandolo con aria grave, sicché anche Castorp taceva. Seduto contro il cuscino, teneva la testa rivolta alla parete e tamburellava coi polpastrelli sulla trapunta. Aveva l'impressione di essere stato ammaestrato, ammonito, persino sgridato. E in quel suo silenzio c'era molta caparbietà puerile. La pausa durò parecchio. Thank you. Così venne anche il giorno in cui, durante la visita mattutina dei medici, Castorp rammentò a Berens che era a letto da 3 settimane e chiese il permesso di alzarsi. «Diavolo, ha già finito!» esclamò il dottore. «Vediamo un po'. Perbacco ha ragione. Dio buono, come si invecchia! Non si può dire che per lei ci sia stato un gran mutamento. Come? Ieri ha avuto la temperatura normale? Sì, tranne che quando si è misurato alle 6 di sera. Beh, Castorp, non voglio insistere e la restituisco alla società umana. Caro lei, si alzi e ambuli, con misura, si intende, e nei giusti limiti». A chi si informava a tavola, anche Castorp indicava qualche linea in più di quelle che aveva in realtà, e non poteva non sentirsi lusingato quando lo si minacciava col dito come fosse un burlone matricolato. Ma se anche esagerava, rimaneva pur sempre a rigore una persona di meno gradi, sicché pazienza e riserbo costituivano sicuramente il contegno che gli era adeguato. Tra sé asseriva che Claudia Chauchat aveva notato la sua ricomparsa fin da quando, sbattuta la porta a vetri, era entrata in ritardo, come al solito, e aveva posato su di lui lo sguardo a occhi stretti, cui egli aveva risposto, e appena seduta si era voltata a guardarlo di sopra la spalla, sorridendo, con lo stesso sorriso di 3 settimane prima, quando egli stava per andare alla visita. Ed era stata una mossa così palese e senza riguardi per lui e per gli altri commensali, che egli era rimasto incerto se dovesse esserne entusiasta o, prendendolo per un segno di disprezzo, indispettirsene. In ogni caso, aveva provato una stretta al cuore a quegli sguardi che avevano rinnegato e smentito in un modo, secondo lui, portentoso e inebriante, il distacco fra lui e l'ammalata. Una stretta quasi dolorosa, fin da quando la porta aveva tintinnato, poiché egli aveva aspettato quell'istante, quasi trattenendo il respiro. Dobbiamo tornare indietro e riferire che il segreto rapporto fra Castorp e la paziente della tavola dei russi a modo, la simpatia dei suoi sensi e della sua mente semplice per quella persona di media statura, dal passo morbido e slittante, dagli occhi kirghisi, il suo innamoramento, insomma, diciamolo pure, benché sia una parola di laggiù, una parola di pianura, aveva fatto durante il suo isolamento notevolissimi progressi. L'immagine di lei gli era apparsa quando, svegliandosi presto, aveva guardato la camera che si disvelava a poco, o quando la sera aveva osservato il crepuscolo che incupiva, anche nel momento in cui Settembrini era entrato, facendo avvampare la luce all'improvviso. Quell'immagine gli si era affacciata ben chiara alla mente, e appunto per questa ragione era arrossito scorgendo l'umanista. Alle labbra di lei, agli zigomi, agli occhi, dei quali portava impressi nell'anima il colore, la forma, la posizione, alle sue spalle cascanti, al portamento del capo, alla vertebra del collo nella scollatura posteriore della camicetta, alle braccia luminose sotto il velo finissimo, a tutto ciò aveva pensato nelle singole ore del giorno spezzettato. E se ci siamo astenuti dal dire che proprio per questo le ore gli passavano così, senza sforzo, l'abbiamo fatto perché partecipiamo con simpatia all'inquietudine che si insinuava nella sbigottita felicità di quelle immagini e visioni. Era infatti sgomento, commozione, una speranza dilagante nell'infinito, nell'illimitato, nel decisamente avventuroso, gioia e angoscia senza nome, ma tale che talvolta comprimeva il cuore del giovane, il suo cuore in senso effettivo e fisico, così improvvisamente da spingerlo a portarsi una mano sulla regione di quest'organo, l'altra invece alla fronte, posandola come uno schermo sopra gli occhi, e a mormorare: «Dio mio!». Dietro a quella fronte, infatti, c'erano i pensieri, o mezzi pensieri, che conferivano alle immagini e visioni la loro eccessiva dolcezza, e riguardavano la noncuranza e la indiscrezione di Madame Chauchat, la sua infermità, il sostegno e l'evidenza in cui la malattia metteva il suo corpo, l'incarnazione della sua natura ad opera di quella malattia, della quale lui, secondo la sentenza del medico, era partecipe. Della stravagante libertà in cui la Chauchat, guardando in giro e sorridendo, trascurava il distacco sociale che ancora vigeva fra loro, egli, nella sua testa, si faceva un'idea, come se loro due non fossero affatto esseri sociali e non fosse neanche necessario che si scambiassero parole. E proprio questo lo sgomentava. Allo stesso modo in cui si era sgomentato nell'ambulatorio, quando aveva sollevato lo sguardo dal busto di Joachim, cercando ansiosamente i suoi occhi, con la differenza che allora lo sgomento era causato da pietà e apprensione, mentre ora la causa era molto diversa. Così dunque la vita al Berghof, quella vita vantaggiosa e ben regolata in breve spazio, riprese il suo andamento normale. Piero Baldini ha letto La montagna incantata di Thomas Mann. Riduzione e regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it